Regista, fieri, camerieri, bruccieri, datemi da sedere. Ricordatevi che io son la monarchessa. Voglio essere ubbidita e rispettata, e se farete ben, vi sarò grata. Soprattutto avvertite di nulla riportarmi di quel che fa il mio sposo, e nulla lui mai riportar di me, mentre ognuno di noi pensa per sé. Avete a dormir poco, avete a mangiar freddo, e nell'ora dell'ozio vuo che l'astrologia tutti studiate, a ciò saper possiate quello che farvi tocca, senza che a comandarvi aprà la bocca. Se qualcheduno sospira per le bellezze mie, ditelo in modo di non farmi arrossir. Se la fortuna aiutarvi vorrà con delle mance, un occhio serrerò, nella vostra fortuna impedirò. Ma che vedo, son qui le mie padrone. Che padrone, sono io la maestà. Mi metterò in contegno e gravità. Divertiamoci un poco. È tanto sciocca che il sognato piacere si gode in pace. Facilmente si crede, fa quel che piace. Che dicono, che fanno, all'uso femminile mormoreranno. Signora, mi consolo della vostra fortuna. Vi ringrazio. Me ne consolo anch'io. Viva vostra maestà. Ragazze, addio. Si ricorda, signora, quando era nostra serva? State zitta! Quel nostro primo mondo mi scordai, come se non ci fossi stata mai. Questo è l'uso comune, chi sorti è migliorato, non si ricorda più del primo stato. Come mi piace il mondo della luna! È bello assai! Sediamo un poco, lei ci fa troppo onore. Sì, sì, mi voglio fare questo favore. È ridicola, è vero. Io me la godo. Mi favorisca lei, è provveduta ancor di Cicisbei. Che diamine dite! Oggi ho preso un marito! In questo mondo, per quel che mi hanno detto, in segno della luna il Galateo, essere posto in uso il Cicisbei. Questa è comune usanza, e sarei il non averlo un'increanza. Ma il marito? Il marito fra gli umori lunatici il più corrente, tacerà, soffrirà, non dirà niente. Il lunar Cicisbeo, pria che siate elevata, verrà a bevere da voi la cioccolata. Il marito? Il marito col medesimo gioco andrà a beverla anche lì in altro loco. Ma io che sono bella, trovarmi non saprei di questi Cicisbei. Fate così, ditelo al vostro sposo, un marito. Purtroppo è così, quando si dona a certa gente bassa un po' di confidenza, convien sempre tener qualche insolenza. E poi l'invidia e il vizio che costoro il cor martella. Or di questa, or di quella, si mormora dal toro a più non posso, e si tagliano agli altri i panni addosso. Maritano tosto e non s'aspetta come talor nel vostro mondo usate che le femmine son quasi invecchiate. Signor, le mie figlie son pure ed innocenti. Eppur si dice che le femmine vostre nascon laggiù con la malizia in corpo. È vero, dite bene. Appena una ragazza sa parlare, principi a ricercare cosa vuol di sta cosa, e poi quell'aletra, e con il praticar diventa scaletra. Le fanciulle alla moda sanno dove il diavolo tien la coda. Ma Flaminia non sa Clarice, distinguer dalla rapa la radice. Orsù, se queste figlie hanno da star quassù, maritarle conviene, altrimenti così non stanno bene. Io mi rimetto a quello che farà vostra più che lunare maestà. Ecco viene Flaminia, ecco Clarice, corteggiando la nostra imperatrice. Brave, brave ragazze, mi piacete. Se voi mi servirete, la mancia vi darò, e quanto prima vi mariterò. Sposa, venite in trono. Se vostro sposo io sono, o che siam promotori e testimoni di due altri felici matrimoni. E spero, a voi destino, Flaminia, per conforte, la prenderete voi. Sì, mio signore, lieto la sposerò con tutto il cuore. E voi, Flaminia bella, siete di ciò contenta? Contentissima! Sposa mia dilettissima! Adorato consorte! Oh, felice momento! Oh, lieta sorte! Destra sua sospiro il dono. Clarice, il prenderete? E perché no? Anzi, con tutto il cor lo prenderò. Ecco la mano. E con la mano il cuore. Oh, felice fortuna, oh, lieto amore. Thank you. mia figliola, il vederti contenta mi consola. Buona fede, che dite? Siete di ciò contento? Anzi, ho piacere che sia le mie figliole maritate. Voi stesso l'approvate? Signor sì. Quando dunque così, per maggior sussistenza del loro matrimonio, a ciò non si rendesse un giorno vano, congiungetele voi di vostra mano. Sì, signore, dite bene, questa funzione al genitor conviene. Qual l'ama, qual io unisco in matrimonio, stia lontano quel demonio che si chiama gelosia. Lunga vita il ciel di Dio e di matrimoni. Buona fede, contento, voi siete soddisfatti, ognun vada a goder la sua fortuna, che bisogno non v'è io d'altra luna. Sì, sì, voi dite bene, or che siam maritati, or che ognuno di noi lieto e giocondo, tornar tutti possiam al nostro mondo. Al mondo ritorniamo, e grazie a buona fede noi rendiamo. Come? Che cosa dite? Intendervi non so. Meglio dunque con voi mi spiegherò.